Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì dalle ore 20:15 circa alle 21:30, qui in diretta ovviamente dagli studi di Radio Onde Furlane. Andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione, ovvero Retribution dei Behind Enemy Lines. Bene, questa era la sigla di questo programma che è Zardins Magnetics, in diretta radiofonica ogni giovedì dalle ore 20:15 alle 21:30. E era il brano Retribution dei Behind Enemy Lines. Stiamo trasmettendo qui dall'emittente radiofonica Radio Onde Furlane a Udine. Siete sui 90 MHz per chi ci sta ascoltando ovviamente sulle frequenze radiofoniche in diretta. E prima dei vari interventi che abbiamo questa serata abbastanza intensa, andiamo con l'ascolto di questa band della zona di L'Aquila, ovvero i Disforia, e questo è un loro l'ultima uscita su vinile, l'ultimo 12 pollici in uno split assieme a una band piemontese della zona di Alessandria, ovvero i Drunkards. Comunque noi ci ascoltiamo Disforia dal loro lato che si chiama Solve et Coagula. Questa sera intervengo per esprimere la mia e la nostra, come Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, solidarietà a Gian Andrea Franchi e a Lorena Fornasir. Gian Andrea e Lorena sono stati perquisiti martedì 23 febbraio da parte della Digos di Trieste per un'inchiesta a loro carico su favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E questa inchiesta criminalizza le attività dell'associazione Linea d'Ombra, la cui sede è anche stata perquisita, associazione che si muove nella solidarietà agli emigranti, che ha da tempo attivo un punto di cura e di medicina dal basso per i reduci dalla rotta balcanica che stazionano presso la stazione ferroviaria di Trieste, un'esperienza che è evidentemente già entrata nel mirino così delle forze dell'ordine più volte, con appostamenti da parte della Digos e della Questura e in Piazza della Libertà e ricordiamolo con la repressione della manifestazione antifascista del 24 ottobre scorso, che aveva proprio lo scopo di impedire che i fascisti di Son Giusto, del gruppo Son Giusto, del cartello diciamo Son Giusto, che riunisce vari gruppi razzisti e fascisti qua a Trieste potessero manifestare proprio in Piazza della Libertà nelle ore in cui solitamente avviene l'attività dei linea d'ombra. Quindi si tratta di un attacco che arriva dopo altri a questa realtà e che si inserisce in una criminalizzazione della solidarietà verso gli emigranti in un clima reazionario forte nel nostro paese di autoritarismo e di razzismo che questa volta arriva ad un'inchiesta che si basa su fatti sui reati che alla fine vogliono arrivare alla tipica equazione dei razzisti, per cui l'aiuto è lucro. Non stiamo parlando infatti di ICS, di Caritas, di altre entità che alla fine sono delle entità aziendali, economiche, per cui effettivamente l'aiuto ha un tornaconto o comunque deve sottostare ai bilanci economici e ai finanziamenti che arrivano quindi dallo Stato, indirettamente arrivano dall'Unione Europea, eccetera. E qui si sta parlando di una realtà organizzata dal basso. Dove il volontariato, chiamiamolo così, è gratuito, extra istituzionale. Quindi da questo punto di vista la nostra solidarietà va a questa realtà e si differenzia sicuramente, si contrappone al razzismo, al clima razzista, all'egemonia razzista che si vuole costruire e rafforzare con inchieste come questa. Ma si differenzia, è alternativa se non antagonista, anche sicuramente alle espressioni di solidarietà che arrivano dalla Lega Coop e anche dalla stessa ICS, diciamolo tutto, perché non vogliamo avere a che fare comunque con realtà economiche che vivono inevitabilmente, per loro collocazione oggettiva nella società in cui siamo, e non per cattiva volontà di chi vi lavora sicuramente, ma vivono di quella che è l'industria e il sistema dell'accoglienza nel nostro paese e in generale a livello globale. Perché è un sistema per certi versi, per molti versi, globale. Un sistema di gestione di quella parte di umanità che per vari motivi deve fuggire da paesi devastati dalla guerra imperialista, da guerre di occupazione, pensiamo all'Afghanistan, da campagne di bombardamenti, da regimi autoritari legati all'imperialismo, dalla miseria, dallo sfruttamento economico imperialista e che si riversa qui tentando di aggrapparsi alle briciole del democratico. Vediamo come anche da questa inchiesta vediamo come sia un'ipocrisia, è ricco, ricco sempre per meno persone, Occidente. Sono tutto di me. Sono tutto di me. La nostra solidarietà a Gian Andrea Franchi, a Lorena Fornasir dell'associazione Linea d'Ombra, a tutta Linea d'Ombra, a tutti coloro che aiutano gli emigranti in Piazza della Libertà a Trieste. Con questa inchiesta la Questura di Trieste e la Procura di Trieste fanno politica in senso razzista, si pongono alla testa di un'egemonia e di un clima razzista che si vuole costruire, che è utile alla classe dominante nel nostro paese e a livello mondiale per promuovere la guerra fra poveri, la guerra fra proletari, la guerra fra sfruttati, per colpire chi sta peggio di noi invece di per mettere al sicuro chi sta sopra di noi, chi sfrutta e specula sulle nostre vite. Una riflessione mi viene da fare sulle accuse rivolte a Gian Andrea, a Lorena Fornasia, all'associazione Linea d'Ombra di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E rispetto alle accuse che vengono rivolte a noi in diversi processi di istigazione rispetto ai detenuti nelle carceri o a manifestanti eccetera nel caso di Gian Andrea e Lorena Fornasir le accuse valterebbero su il favorire un fenomeno che spontaneamente e naturalmente si produce in una condizione di sfruttamento e di oppressione sempre più forte verso determinati paesi, verso gran parte dei paesi del mondo, da parte dell'imperialismo, come il fenomeno migratorio, un fenomeno che possiamo considerare oggettivo, visto queste condizioni e questi equilibri o disequilibri mondiali. E quindi il pensare che l'immigrazione clandestina sia il prodotto dell'azione di qualcuno, in questo caso di un'azione assolutamente disinteressata, solidale, umanitaria, genuina, o possa essere il prodotto anche dei passeo, di chi lo fa per soldi, tutto ciò non sta in piedi, si tratta di un moto spontaneo che deriva da condizioni oggettive e che deriva da come questo movimento spontaneo viene gestito poi dagli stati, dagli stessi stati che sono responsabili della miseria, dell'oppressione, dello sfruttamento dei popoli, con leggi come la Bossi-Fini, la Turco-Napolitano, istituzioni come i CPR, che nel nostro paese sono state leggi e istituzioni che nel nostro paese sono state approntate, da costruite, portate avanti e applicate dai governi e dalle maggioranze di centrodestra, di centrosinistra, da tutto lo schieramento borghese, che hanno la funzione di porre una parte della società, gli immigrati, una condizione di apartheid giuridica, soprattutto rispetto al mondo del lavoro, rispetto allo sfruttamento che viene così intensificato tramite il ricatto dei permessi di soggiorno, delle espulsioni, eccetera, nei loro riguardi, e che quindi riguardano una condizione di oppressione che riguarda tutti. Ecco, l'immigrazione clandestina è quindi il prodotto di un sistema economico e di un ordinamento politico e giuridico particolare. Poi c'è chi rispetto a questa situazione si muove per alleviarla, per sostenere chi è costretto a spostarsi dai propri paesi, e anche clandestinamente, quando non riesce ad entrare nel circuito dell'accoglienza di cui parlavamo prima, e chi ci fa i soldi lo fa in maniera, o chi comunque ci costruisce delle attività aziendali, perfettamente legali, come l'ICS, come la Caritas, come le cooperative sociali, o come la criminalità, che lo fa in maniera extralegale. Non c'è nessuna questione di la questione del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è una classica costruzione ideologica giuridica di un sistema, ecco, perché l'immigrazione clandestina esisterà sempre finché esisteranno questi fenomeni. E così come l'istigazione, l'assurdo è un'accusa nei nostri riguardi rispetto alla ribellione o all'azione diretta compiuta da altri. E ribellione, azione diretta, ribellione che è stata di massa nelle rivolte a marzo scorso nelle carceri italiane e che comunque pervade anche il sistema carcerario italiano, da ultimo la lotta delle detenute qui nel carcere del Coroneo, altre rivolte eccetera, e che pervade anche la società, pervade meno di quello che vorremmo noi, ma che comunque c'è, ed è una spinta oggettiva, anche questa deriva da condizioni di oppressione di classe, economiche, sociali, di genere, rispetto a quello che è l'ordinamento che è l'ordine costituito che viviamo e che sta sulle spalle dei proletari, dei sfruttati, delle sfruttate. E quindi entrambe la riflessione che mi è venuta da fare è che entrambe queste accuse stanno nell'ideologia del nemico, nell'ideologia della classe dominante. E la società è molto più complessa di quello che riesce a dirimere e a gestire e a reprimere la giustizia borghese. Lunga vita alla solidarietà umana, a tutti i percorsi dal basso che aiutano chi ha bisogno. Lunga vita alla lotta di classe, lunga vita alla ribellione. Ribellarsi è giusto e noi continueremo a sostenere chi lo fa con ogni mezzo. Thank you. E mentre in sottofondo stiamo ascoltando i Disforia dal loro album Solve et Coagula, album split assieme ai Drunkards, uscito nel 2018, vi leggo i contatti che all'inizio trasmissione non l'ho fatto e comunque lo faremo anche a fine trasmissione. E c'è contatti per ovviamente noi di questa trasmissione Cazzardins Magnetics, vi do una mail che è liberetutti@autistiche.org e poi c'è anche una casella postale per chi volesse scriverci in forma cartacea, ed è questa: Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121 Trieste. Ripeto tutto ripartendo dalla mail, sì, dalla posta elettronica, liberetutti@autistica.org e poi la casella postale nostra, che è Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121 Trieste. E inoltre vi ricordo che questa trasmissione e anche, diciamo, quelle scorse le potete ascoltare in questo blog, che è zardinsmagneticsradio.noblogs.org. ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. E questa sera a Zardins Magnetics diamo anche un po' di risonanza, di giusta risonanza alle battiture che si sono svolte il 1° febbraio, il 15 febbraio, alla sezione femminile del carcere di Trieste, del Coroneo. E ve ne diamo un resoconto. Lunedì 15 febbraio si è svolta la seconda battitura delle detenute del carcere di Trieste. Sia il 1° febbraio che lunedì 15, sotto al carcere si sono trovate una trentina di persone per supportare anche loro con pentole e altre cose la battitura sotto il carcere. In entrambe le occasioni il dispositivo di polizia era folto e c'era la presenza, come richiesto dalle detenute, dei giornalisti. Alle detenute è stato comunicato che in tanti fuori sono andati sotto le carceri a comunicare la loro proposta, che sono state fatte dirette radio e che la città è stata riempita di manifesti riguardo la loro lotta. Le detenute hanno comunicato con noi e hanno ringraziato per il lavoro fatto di comunicazione e presenza. Una cosa interessante da dire è che sul giornale locale Il Piccolo del 2 febbraio, nel tentativo di screditare alcune richieste delle detenute, c'era scritto, riguardo alla questione vaccinale, che probabilmente le detenute non avevano ben capito, visto che molte di loro sono straniere e quindi non in grado di comprendere il problema, accennando anche che dentro al carcere forse è mancata la giusta comunicazione sul piano vaccinale. Sta di fatto che il giorno della seconda battitura ci è pervenuta una lettera di una detenuta in cui spiega che le donne lì presenti sanno tutte l'italiano e che ribadiscono i loro punti di rivendicazione e che anzi ne aggiungono altri. Le detenute non hanno rilanciato altri momenti di lotta, ma ci terranno aggiornate su cosa avviene dentro e sulle future possibili iniziative. Una cosa negativa da osservare è che i detenuti del maschile non hanno partecipato alle battiture. Cercheremo di capirne i motivi. Da parte nostra continueremo a seguire la situazione, a mandare rassegne stampa alle detenute in modo tale che possano da sole farsi un'idea sui temi come vaccini o simili. Inoltre a marzo si terrà un'iniziativa in piazza Trieste per parlare della strage di marzo 2020 nelle carceri, per ricordare il compagno Pedro, ucciso l'8 marzo dell'85 dalla polizia, ma anche per parlare di quello che avviene tuttora nelle carceri italiane. Ecco, questo è il resoconto appunto che abbiamo fatto come assemblea contro il carcere e la repressione, e di seguito vengono riportate le rivendicazioni delle detenute. scritte il 9 febbraio, in cui dicono inoltre di aver ricevuto dei rapporti disciplinari per i cori e le grida che avevano accompagnato la loro prima battitura, così come fanno notare un trasferimento senza preavviso di una ragazza e non motivato dal carcere triestino a quello veneziano, 3 giorni dopo la battitura del 1 febbraio. Ecco di seguito le rivendicazioni. Indulto, domiciliari o messa alla prova per chi ha scontato un terzo della pena, più ore di apertura delle celle, invece che la chiusura alle 17.45, posticiparla alle 19.30. Controllo del vitto, il cibo è crudo, immangiabile. Apertura giornaliera della biblioteca, non solo quando hanno voglia loro, cioè un giorno a settimana, se va bene. Corsi, corsi e corsi, qui non ce n'è nemmeno uno, non c'è lavoro, non ci stiamo riabilitando, ma stiamo peggiorando. CERT ed educatori almeno una volta a settimana, invece di passare una volta al mese, come succede ora, rallentando così tutti i processi. Riabilitazioni dal GOAP, cioè dal Centro Antiviolenza di Trieste, per le donne che hanno subito violenza. No vaccini, ma più sanità e controlli medici. E queste erano appunto le rivendicazioni delle detenute del carcere di Trieste, che hanno espresso in occasione della prima battitura che si è svolta il 1 febbraio e poi hanno reintegrato anche in occasione della seconda battitura che si è svolta il 15 febbraio. Io, il furore di Dio, mi sposerò con mia figlia e fonderò con lei la dinastia più pura che abbia mai regnato sulla terra. Noi due insieme regneremo su tutto questo continente. Ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Jardins Magnetics. Questa sera vorrei leggervi un documento prodotto dai compagni e dalle compagne del Trentino che si intitola Fianco a fianco sul processo a Juan e sul perché non lo lasceremo solo. Inizio la lettura. In questi mesi a Treviso si sta celebrando un processo a carico di un nostro amico e compagno, Juan Sorrote, accusato di aver posizionato due ordigni, di cui uno inesploso, presso la sede della Lega di Villorba nell'agosto 2018. Lotte, repressione e la scelta della latitanza. Juan, compagno anarchico spagnolo che per anni ha vissuto in Trentino, è stato arrestato il 22 maggio 2019 in provincia di Brescia, dopo oltre due anni di latitanza. Si era reso irreperibile per sfuggire ad un cumulo di pena di circa 8 anni, in seguito a vari processi legati alle lotte a cui aveva preso parte, in Trentino come in Valsusa, contro il devastante progetto del treno ad alta velocità. In particolare, Juan era stato tra i molti arrestati per la giornata di lotta del 3 luglio 2011, attorno al cantiere militarizzato di Chiomonte, quando decine di migliaia di persone assediarono la polizia e tentarono di riconquistare l'area in cui, fino al violento sgombero della settimana precedente, si trovava la Libera Repubblica della Maddalena, esperimento di resistenza e vita collettiva sui terreni su cui incombeva il progetto del tunnel esplorativo per l'alta velocità. Nel processo che ne seguì, Juan, insieme ad altri compagni, rivendicò a testa alta la partecipazione a quella giornata di lotta e ai percorsi di opposizione al TAV in generale. Rifiutò la difesa, ritenendo di non avere proprio niente da cui doversi difendere, e venne per questo condannato a 4 anni. L'accusa di strage. Quando, a maggio 2019, Juan viene arrestato insieme ad un altro compagno, Manu, accusato insieme ad una compagna di averne favorito la latitanza, e diverse case vengono perquisite, si viene a conoscenza di una nuova indagine che lo vede accusato di attentato con finalità di terrorismo, articolo 280 del codice penale, e di strage, articolo 285 del codice penale, per l'azione contro la sede provinciale della Lega di Treviso avvenuto ad agosto 2018, rivendicata dalla cellula Aris Azimihelakis, internazionale nera, 1881-2018. Secondo la ricostruzione della Procura di Treviso, a Villorba, nella notte fra l'11 e il 12 agosto 2018, viene posizionato un ordigno di fronte alla porta posteriore della sede della Lega e un altro sotto la scala esterna per accedervi. Secondo questa narrazione, lungo la scala era stato disposto un filo di traverso che, una volta urtato, avrebbe attivato l'innesco del secondo ordigno. La scala era stata recintata con del nastro bianco e rosso da cantiere e nei paraggi erano stati lasciati una trentina di fogli con la scritta bomba, evidentemente per evitare che qualcuno potesse inavvertitamente innescare l'ordigno. Il primo ordigno esplode nella notte, mentre il secondo rimane inesploso. Il reato di strage non prevede la possibilità del tentativo, cioè non esiste il reato di tentata strage, perché vi sia una strage. Il codice penale richiede che venga potenzialmente colpito un numero indeterminato di persone non individuabili a priori con l'obiettivo di ucciderle. Per questo reato è prevista la pena dell'ergastolo. L'accusa di strage è particolarmente infamante. Piazza Fontana a Milano, Piazza della Loggia a Brescia, la stazione di Bologna sono solo alcune delle stragi commesse dallo Stato che hanno portato alla morte di centinaia di persone nel quadro di una strategia volta a stroncare una stagione di lotte. Mentre la violenza dello Stato colpisce nel mucchio, la violenza rivoluzionaria non è mai indiscriminata, ha obiettivi chiari e responsabili ben precisi a cui chiedere conto. Per colmare possibili amnesie è utile ricordare il periodo e il contesto in cui si inserisce l'azione a Villorba. Matteo Salvini era appena stato nominato ministro dell'Interno, al culmine di una campagna elettorale permanente tutta giocata su una costante istigazione all'odio razziale. L'esordio della politica dei porti chiusi aveva reso sempre più complicate le operazioni di salvataggio in mare, aumentando in maniera esponenziale il numero di morti nel Mediterraneo. che già si contavano a migliaia e per le quali forse risulta più appropriata la definizione di strage. Inoltre emergevano sempre più testimonianze delle torture subite dai migranti nei lager libici, direttamente finanziati dallo Stato italiano. Greetings from the humongous, the Lord humongous, the warrior of the wasteland, the Ayatollah of rock and roll. E proseguiamo con la lettura del documento Fianco a Fianco in solidarietà con Juan Sorroque, che è stato redatto dai compagni e dalle compagne del Trentino. Terrorismo e carcere speciale. Juan si trova ora rinchiuso nel carcere di Terni, nel circuito speciale denominato Alta Sicurezza, dedicato ad accusati o condannati per terrorismo e criminalità organizzata, con l'impossibilità di avere rapporti con detenuti di altre sezioni. Nel carcere di Terni si trova anche una sezione di 41 bis, solo 2 ore d'aria al giorno, in massimo 4 persone, ma spesso da soli, in un passeggio chiuso da una rete metallica, 22 ore chiusi in cella, bocche di lupo alle finestre che impediscono di vedere all'esterno, posta censurata, limitazione ai colloqui, al numero di libri e agli oggetti che è possibile tenere in cella. Questo regime disumano discende dalle sezioni di isolamento totale usate alla fine degli anni 70 per stroncare l'ondata di conflitto sociale. E auto-organizzazione proletaria, anche armata, che aveva sovvertito radicalmente i rapporti di forza tra le classi nel decennio precedente. La presenza di sezioni di carcere duro influenza la gestione di tutto il resto del carcere. Del resto, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Caffiero De Rao, si è espresso a favore di un'estensione dell'applicazione del 41 bis, anche ai semplici indagati con accuse di terrorismo o criminalità organizzata. Nata come pratica per imputati classificati come particolarmente pericolosi, la videoconferenza è stata estesa ampiamente, anche in seguito all'epidemia di Covid-19. In questo modo lo Stato elimina anche la mera presenza fisica dell'imputato in tribunale, una pesantissima limitazione della possibilità di organizzare la difesa, di interloquire con l'avvocato, di rilasciare dichiarazioni e in generale di intervenire attivamente nel processo. Basti pensare che il giudice, con un semplice clic, può interrompere la comunicazione con l'aula. Questo ha poi ovviamente delle ripercussioni sugli esiti del processo. Non solo, durante un'udienza Juan è stato portato a seguire la videoconferenza proprio in 41 bis, un esempio dell'utilizzo estensivo del regime di isolamento totale a cui ci riferivamo prima, che non ha riguardato solo lui, ma anche altri detenuti. A queste restrizioni, e sempre nella direzione di un inasprimento dell'isolamento, si aggiunge anche il reiterato rifiuto, protrattosi per più di un anno, di concedergli i colloqui con la sua compagna. Venga a darmi una mano. Volevo sfogarmi scopando come si deve, ma non sono in grado di scopare. Va bene. We'll be right back. l'indagine e il processo, la cosiddetta prova del DNA. Nell'indagine che ha portato all'arresto di Juan, le intercettazioni telefoniche ed ambientali sono state utilizzate in maniera estensiva e costante, non solo nei confronti degli indagati, ma anche di tutti quelli che ne compongono il contesto relazionale, amici, coinquilini, affetti. Tra le prove raccolte a carico di Juan ci sarebbe quella del DNA. Generalmente questa viene considerata una prova regina, il che significa che in sua presenza la dimostrazione della colpevolezza passa, per usare un eufemismo, in secondo piano banalmente la ricostruzione di come possa essere finito lì il materiale biologico di quella persona. La prova del DNA è di natura probabilistica, nel senso che è spesso sufficiente che il profilo genetico trovato sulla scena del fatto e quello della persona indagata siano in parte coincidenti. Di frequente il perito non può spingersi oltre all'affermare che non è possibile escludere che i due profili trovati siano della stessa persona. Un po' poco, non vi pare? Il profilo genetico risultante dal materiale biologico trovato vicino alla sede della Lega di Villorba, da cui sono stati isolati i profili genetici di ben 8 persone diverse, è stato comparato con un profilo genetico estratto da materiale biologico inizialmente giudicato insufficiente per compiere un paragone che potesse reggere minimamente a giudizio. Magicamente, dopo la chiusura delle indagini, il materiale biologico è diventato sufficiente. Ciò nonostante, Juan è stato sottoposto in carcere al prelievo coatto di materiale biologico, pratica ormai diffusa e ad oggi legale, dopo anni di prelievi illeciti sui detenuti, sia per motivi di indagine che per una più generale e grottesca esigenza di schedatura genetica dell'intera popolazione carceraria. Non paghi, gli inquirenti hanno successivamente prelevato altro materiale, dato che ogni volta che viene analizzato il materiale biologico viene distrutto. A una mente smaliziata potrebbe sembrare che le analisi siano state ripetute fino ad ottenere i risultati voluti. Nell'ultimo periodo lo Stato ha mostrato anche ai più distratti che cos'è la giustizia che si amministra nei tribunali. I vertici di Autostrade per l'Italia, che hanno lasciato consapevolmente crollare un ponte, causando una strage, pur di non limitare i propri profitti, sono a casa loro mentre aspettano il processo. I vertici delle ferrovie, che a Viareggio hanno provocato una strage con 32 morti, per aver tagliato i fondi destinati ai sistemi di protezione, hanno visto i loro crimini cancellati o prescritti dalla Corte di Cassazione. Intanto si processa per strage qualcuno che è accusato di aver attaccato una sede della Lega. E ancora ho veduto sotto il sole il crimine essere il tribunale, giusti aver paga di colpevoli, colpevoli aver premio di giusti. Si legge in un libro della Bibbia, l'Ecclesiaste, scritto nel III secolo avanti Cristo, a riprova di quanto antica sia la consapevolezza che giustizia e potere sono potenze nemiche. Per questo non bisogna mai confondere ciò che è giusto e ciò che è legale, l'etica e il giudizio dello Stato. Quando non si capisce più la differenza, non c'è limite alle sciagure che i potenti possono rovesciare sulla società. Basta vedere cosa sono diventate le condizioni di lavoro da quando la gente ha smesso di lottare. Precarietà, licenziamenti, ricatti, sfruttamento, è tutto legale, la legge la stabilisce il più forte. Cosa fa un essere senziente quando non vuole più ignorare l'ingiustizia, quando non vuole più girarsi dall'altra parte? Agisce anche contro la legge, come hanno sempre fatto le ribelli, i partigiani, i solidali. Ecco perché non ci interessa sapere chi ha compiuto il gesto di Villorba. Ciò di cui siamo certi non ha bisogno di avvocati o di periti. Nessun tribunale potrà mai trasformare un'azione ben precisa e discriminata in una strage. Nessuna corte potrà mai cancellare il razzismo assassino della Lega. Nessuna sentenza farà mai di Juan un terrorista. Terrorista è lo Stato, non chi contro il potere e lo sfruttamento si è sempre battuto. Anarchiche e anarchici. Le anime più oscure non sono quelle che scelgono di dimorare nell'inferno dell'abisso, ma quelle che scelgono di liberarsi dall'abisso e si aggirano silenziosamente tra noi. Guardatevi attorno e potrete notare che nessuno vi avrebbe mai fatto alcun male se voi non vi foste inoltrati a pisciare al di là delle vostre terre. Vedete solo ciò che volete da sempre. Appoggiate un governo capace di inimmaginabili bestialità. Escludete chiunque sia diverso da voi per paura di un'epidemia. Non avete capito che siete voi la malattia. Questo che vi ho letto era appunto un documento redatto dalle compagne e dei compagni del Trentino che si intitola Fianco a fianco in solidarietà con Juan, e ne approfitto per dire che il 27 febbraio ci sarà a Treviso la prossima udienza del processo a Juan e che sempre in tema di aggiornamenti sui processi alle anarchiche e agli anarchici, il lunedì scorso, lunedì 22 febbraio, a Trento c'è stato, è iniziato il processo d'appello per l'operazione Renata. E vabbè, brevemente, poi i compagni magari nei prossimi giorni daranno maggiori dettagli. Comunque, dai giornali appunto si apprende che la Corte d'Appello di Trento ha in gran parte confermato la sentenza di primo grado. E non è, il collegio ha respinto le richieste del procuratore generale che aveva chiesto il riconoscimento dell'aggravante per appunto associazione a delinquere con finalità eversive e che era aggravante che era caduta ancora nel 2019 e appunto il procuratore aveva chiesto anche un ricalcolo delle pene con condanne complessive a circa 25 anni. Questo è stato, è caduta questa cosa. E nonostante ciò però due compagni hanno avuto un aumento di condanna di 6 mesi a testa e sicuramente comunque daremo maggiori dettagli nei prossimi giorni. E mentre sta andando in sottofondo questa band, volevo ricordare che in precedenza abbiamo ascoltato durante l'intervento i Drunkards, band della zona di Alessandria, La Spezia e Modena, che comunque avevo anche annunciato prima dello split assieme ai Disforia, ma questo dei Drunkards che abbiamo ascoltato era un altro album, Sentenza di Morte, datato 2007, mentre ora invece prima del prossimo intervento ci stiamo ascoltando una band di Trento, della zona dell'area di Trento, ovvero i Congegno. Cimitero dei vivi. Buonasera e ben ritrovate e ritrovati per questo mio intervento nella puntata di Zardins Magnetics di giovedì 25 febbraio. Come sempre, siamo in onda sui 90 MHz della modulazione di frequenza per chi ci ascolta dal Friuli e in streaming sul web per chi ascolta da dove le onde medie non riescono ad arrivare. Questa sera vorrei riprendere il filo del discorso lasciato in sospeso un mesetto fa circa, il filo del discorso sulla critica radicale all'esistente, per semplificare ed essere diretti. Riprendiamo questo filo con il pretesto che ci è fornito da un articolo letto su una pubblicazione che è giunta ormai al terzo numero e si chiama Nkatamrigu. È una pubblicazione che viene dalla Sardegna Libertaria. Per chi è interessato ad approfondire o a richiederne una copia, ci può contattare all'indirizzo di posta elettronica liberetutti@autistiche.org oppure scrivere direttamente a nkatmurigu@gmail.com. L'articolo è la continuazione, la seconda parte di un contributo uscito in primavera, ancora rintracciabile in rete, e ne avevo parlato su queste frequenze. Si intitolava Covid-19 è stato totale, una prospettiva da sud. L'articolo che leggeremo stasera è intitolato invece Di razzismo strutturale, mafia e colonialismo interno, di nuovo da sud. Una premessa, un preambolo, diciamo, sul contesto nel quale è inserito l'articolo. Il numero 3 di Nkatamrigu, che detto per inciso significa qualcosa tipo c'è trambusto, è focalizzato sul colonialismo in senso lato, anche come dispositivo ideologico. Per questo vengono svolte delle interessanti considerazioni sulla condizione reale di chi ci vive e lavora della Sardegna, in quanto colonia dello Stato italiano, sotto molteplici punti di vista, e analoghe considerazioni sull'altra isola, cioè sulla situazione siciliana, e sul significato delle sommosse, infine, sul significato delle sommosse statunitensi di giugno 2020 dal punto di vista di chi cerca e pratica l'autodifesa e l'autonomia dallo Stato, quindi sempre in una prospettiva di decolonizzazione dallo Stato e dal capitale. Prima di affrontare così o anticiparvi i contenuti di questo articolo, diciamo anche che la scelta interpretativa che viene data a tutti gli approfondimenti di questo numero di Nkat Murigu e ci trova in sintonia. Infatti vengono presi in considerazione gli sguardi delle periferie, intese anche come geografiche, quindi come Friuli Venezia Giulia siamo chiamati in causa anche noi, sguardo privilegiato a cogliere le contraddizioni delle cosiddette democrazie inclusive. Quindi in questo articolo, che ripetiamo, si intitola Di razzismo strutturale, mafia e colonialismo interno, di nuovo da sud, qualcosa ci ha fatto scattare un cortocircuito. Con le parole che avevamo ascoltato anni fa qui a Udine dall'operatore sociale disertore nonché scrittore Luca Rastello, prima di tutto, quando si parla di mafia, il pensiero va ai dispositivi culturali e ideologici che il capitalismo promuove per inferiorizzare e dominare segmenti di popolazione marginali ai grandi flussi di ricchezza, propugnando idee senza parole, secondo la definizione dello studioso Furio Iesi. Questo in prima battuta. In secondo luogo, le mafie cosiddette sono entità reali e innegabili, che devono tuttavia essere inserite in un quadro complessivo, una realtà fluida, dove il discrimine non è tra legalità e illegalità, bensì tra diverse soglie di partecipazione allo Stato e di radicamento al tessuto sistemico di sfruttamento capitalistico. Ancora un altro livello di analisi va applicato all'esistenza dell'apparato ideologico e materiale antimafia, con i suoi diversi addentellati, di cui alcune espressioni del linguaggio possono essere caratterizzate come reperti. È impressionante perché comporta una trasformazione di modelli culturali e di azione politica, ovvero, e qui arrivo davvero alla fine, ci passa, i tre passaggi sono credito morale, credenziale morale e ideologia autolegittimante. Credito morale è una cosa molto comprensibile terra a terra, è un capitale di azioni che io o lui, facciamo io che così faccio la parte del buono, ho compiuto, per dire, per primo ho scoperto le madrisole come nuovo soggetto a disagio e mi sono accorto e ho fatto dei progetti, oppure per primo mi sono occupato di tossicodipendenza e ho messo un'unità di strada, oppure anche non per primo, però l'ho fatto in questa città e l'ho fatto bene. Ho fatto 3-4 azioni che mi legittimano come interlocutore di istituzioni, di altre organizzazioni, eccetera. Credito, ma il mio credito è un piccolo capitale di azioni che mi dà credito. Il passaggio delicato è quello che abbiamo accennato prima, no? È quando il capitale di azioni non conta più, ma conta il tuo ruolo. Ciò che tu sei, quella è la credenziale morale. Cioè tu sei interlocutore in quanto sei un agente del bene. Non importa quello che fai o quello che hai fatto, conta il fatto che tu incarni in qualche modo la spada fiammeggiante dell'angelo che si contrappone al male assoluto. Guardate il marketing della solidarietà, individuò per esempio negli anni 70 la droga, che era il terrore assoluto della borghesia italiana, allora media borghesia, perché cosa fa la droga? È terribile, prende i tuoi figli, li trasforma in zombie, terrore, furo, cioè quindi fantascienza. Chi si batte sulle tossicodipendenze acquista un credito morale che rapidamente diventa credenziale morale. Si è battuto contro il male assoluto, dunque il bene assoluto. Quindi è credibile anche quando parla di altre cose che non sono quelle che sa fare, che ha fatto. A volte ogni tanto necessita un rebranding. Quando, come dicono i pubblicitari, si cambia il marchio, quando comincia a scadere la droga, dopo un po' si è capito le droghe, si è capito che le usano pure gli animali, cioè che, sanno cos'è. Che il problema non è tranne Gasparri, se ne sono accorti tutti, che il problema non è di combattere, ma di capire che cosa succede, e non è un problema di ordine pubblico. Allora vabbè, troviamo un altro, cioè, le mafie, sono cattivissime, è vero, sono cattivissime. Dopodiché le mafie fanno una cosa, ma questa non la dico, se non la dico nel dibattito, che è la stessa che facciamo noi. E allora qui però scatta il passaggio da credito morale a credenziale morale. Ma quando io voglio essere, scusate il paragone volgare che ho preso, ma perché mi viene dritto dalla mia nonna, quando voglio essere insieme il potere e il contropotere, e su questo garantisco la mia sopravvivenza, perché io devo essere il potere per maneggiare le leve economiche, ma devo essere il contropotere per maneggiare il consenso e arruolare gente. Perché è inutile dire che noi rispondiamo a una domanda di partecipazione che c'è, diffusa nella società, che è una domanda di destino, anche di, soprattutto dei giovani che sono stati fottuti di tutto, a cui hanno tolto il futuro, hanno tolto il lavoro, la stabilità, la possibilità di fare un figlio. Io conosco gente che non può fare figlio perché vorrebbe farlo, ma non possono, perché non possono, perché come fai con un contratto trimestrale sapendo che a scadenza non viene rinnovato, eccetera. Lui ha tolto anche il biologico, no? E questi hanno bisogno di incazzare, ma gli abbiamo tolto il contesto politico, gli abbiamo tolto la critica sociale, perché viene fuori dalla legalità, ogni critica sociale efficace è fuori dalla legalità, noi abbiamo sacrificato la legalità, quindi zitti, dovete stare in quel recinto lì se volete protestare, perché combinazione è il recinto dove non ti sente nessuno. E tanto qui, c'è una domanda di partecipazione a Telebi, benissimo, venite da noi, ve la diamo la partecipazione, abbiamo credito e credenziale morale. Ma siccome per sopravvivere dobbiamo essere potere e contropotere, non basta più la credenziale morale, bisogna fare il terzo passo, che è quello pericoloso, è quello da cui si può tornare indietro, da cui si deve tornare indietro, da cui un discorso politico che è prima di tutto igiene del linguaggio, perché non vorrei in questo mare di chiacchiere aver fatto dimenticare la prima parte del discorso, che è là dove si costruisce una realtà col linguaggio e manipolando il linguaggio si detiene il potere dentro quella realtà, che comincia il dramma, che comincia il problema. E allora l'azione politica è prima di tutto igiene del linguaggio, e anche riuscire semplicemente ad astenersi dal dire metterci testa è già un'operazione politica, poi se ne possono fare di più radicali, però l'operazione politica che si può fare è tornare indietro dal terzo passo. Il terzo passo è passare dalla credenziale morale a un'ideologia autolegittimante. Attenzione, la credenziale morale ancora semplicemente investe te come soggetto interlocutore perché hai un ruolo. L'ideologia invece è una visione del mondo che determina tutti i valori e una griglia con cui guardi tutto. Guardi anche tua madre e tuo fratello, ti vengono dati i valori, l'ordine di valori, i criteri di appartenenza, eccetera. Combinazione, se posso dire, ve lo dico rapidamente, si risponde in maniera distorta, grazie al fatto di maneggiare una buona ideologia autolegittimante, si risponde a due bisogni. Il primo bisogno è non essere criticabili, non essere intoccabili, neanche analizzabili, neanche descrittibili. Si sono incazzati perché i buoni descrivono, non criticano, descrivono, non si vuole nemmeno dire. Ma il primo bisogno è rispondere a una domanda che è una domanda sociale, che esprimono territori, generazioni, e farlo in maniera efficace ma distorta, ovvero tu vuoi lavoro e io ti do sfruttamento, è una forma di lavoro, tu vuoi comunità e io ti do affiliazione, appartenenza, per carità, è una forma di comunità. Tu hai una gerarchia strutturata di valori, io te la do, ti dico esattamente dove sta il sacro, il meno sacro, il profano e il traditore. Tu vuoi delle relazioni agibili sul piano personale, sentimentale, affettivo e anche biologico, io te le do in termini di endogamia, fai tutto dentro l'organizzazione per favore, dentro quel mondo. Tu vuoi anche relazioni invece di potere di denaro col mondo esterno? E io te le do, le fai, ma finalizzate l'organizzazione, devono portare i loro frutti dentro. Io vi chiedo, questa domanda sociale così articolata, con questa risposta distorta, che cosa sta descrivendo? La mafia o il mondo degli onlus? Tutte e due. Tutte e due. Forse è per questo che si fa rebranding, si comincia a parlare di mafie, perché le mafie cosa sono? Tribù, bande, altri. Se parliamo di mafia parliamo di un modello di relazione con le domande sociali, compresa la domanda di partecipazione dei ragazzi. Grida, se vuoi che questo cazzo di mondo qualcuno ti sa. Questi sintomi linguistici, o meglio, da questi miti molto fragili, scaturiscono da uno slittamento invisibile che ha portato oggi alla difficoltà di organizzare una risposta concreta e di attacco alle offensive dello Stato nei confronti degli sfruttati, e che viene in questo articolo sottoposto a una critica per far così venire alla luce il decadimento della qualità della conoscenza di collettivi, di realtà di base e di movimenti in generale, nel senso che in un'epoca come la nostra, di povertà, di esperienze reali e diffuse di lotta, è venuta meno anche la capacità di analisi, e con questa capacità hanno finito, con la venir meno di questa capacità, hanno finito per dominare una serie di caratteristiche esteriori astratte, appunto questi miti ideologici, come possono esserlo gli eroi dell'antimafia, e insieme ad essi una serie di valori come quelli del progresso, della delega, del pacifismo vittimista. Questi valori oggi scorrono ovunque nella società e minacciano persino di infestare il pensiero e l'azione di chi si professa contro la società capitalista e per la sua distruzione. Però non voglio svelarvi tutto quello che viene esposto in questo interessante articolo, che si intitola, lo ripeto, di razzismo strutturale, mafia e colonialismo interno di nuovo da sud, e che troverete nel numero 3 di Nkat Murigu. Nkat Murigu è nato nel 2018 come esperienza e momento di confronto e approfondimento tra compagni, con l'obiettivo anche di non destinare al web contenuti e considerazioni che su quel mezzo, nel giro di un anno o poco più, vanno perdute o dimenticate o rimangono addirittura sconosciute. Quindi questi articoli, insieme agli altri numeri di Nkat Murigu, li troverete solo su carta, e come ho detto l'opuscolo è disponibile anche scrivendoci al nostro contatto mail, che è liberetutti@autistiche.org. Anche per questa sera è tutto, un saluto e a risentirci, Mandy. E quelli che stiamo ascoltando in sottofondo sono i Congegno, band trentina, da un loro CD, diciamo un CD che raccoglie alcuni brani usciti tra il 2010 e il 2012, comunque è un CD allegato al loro album che si chiama Metamorfosi. E vabbè, a parte questo brano che si intitola Grida, che comunque abbiamo un po' ripetuto prima tra gli interventi, e, è solo per dirvi che ci salutiamo perché siamo giunti al termine di questa trasmissione. Come già detto, Zardins Magnetics, ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane, dalle ore 20 e 15, alle 21 e 30. Vi ricordo sempre che potete riascoltare questa trasmissione nel blog, che comunque è zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, ciao a tutti, vi lascio ancora con un brano dei Congegno e ci risentiamo il prossimo giovedì. Vorresti uscire, ma hai capito che fuori nessuno più voglia di